potrebbe andare tutti allo zoo comunale. Vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno. Ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io notturno, con la bella sotto braccio a parlare d'amore, e scoprire che va sempre a finire che piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io notturno, e vengo anch'io, vengo anch'io. Ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io notturno. Allora, buongiorno, la trasmissione Vengo Anch'io, oggi una giornata di una vera primavera, anzi quasi estiva, forse saremo questi della trasmissione qualcun altro che ci ascolta, perché oggi parecchie saranno andate al prato, però per chi ci ascolta sicuramente fedeli della trasmissione della radio, gli ricordiamo anche i numeri del conto corrente per aiutarci a finanziare, che è il 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, Roma. Vi do anche un bel numero che potete intervenire sulla trasmissione. Questa è una trasmissione aperta. Funziona se telefonano la gente, se no vuol dire che parliamo tra quattro amici al bar. Ed è il numero 06 49 17 50. Fatto la parte iniziale, vorrei iniziare con qualcosa che mi è capitato di vedere in televisione e mi ha sorpreso positivamente. Ho sentito un'intervista a un prete, Don Gallo di Genova. Al di là di rivendicare alla teoria della liberazione, di essere, di rispondere in maniera diretta e non tanti compromessi, di prendere le distanze dal Papa, ha detto che il 1° maggio lui non andrà alla beatificazione del Papa, ma sarà a piazza, se non beatificano la... a piazza San Giovanni, anche se con tutte le contraddizioni, canterà il nuovo inno della Resistenza. Alla fine dell'intervista, fuori da tutta una serie di schemi, gli chiede all'intervistatore, dico, devo fare qualcosa prima di uscire. Da sotto la tonaca tira fuori una bandiera rossa, la sventola a mo' di saluto. Mi ha colpito perché un prete rivendica e sventola la bandiera rossa, tanti che a nome della bandiera rossa ci raccontano tante stronzate, però nascondono sempre questo significato, questa simbologia. Si vergognano di essere comunisti oppure negano di essere stati comunisti. Cioè, mi sembra che alla fine gente come noi si deve quasi affidare a un prete, anticlericali, e poi un prete ci riscatta con la bandiera rossa. Vabbè, fatta questo preambolo, no? Diciamo, oggi abbiamo ospiti, no? Nel giro delle varie trasmissioni che stiamo facendo con varie realtà, oggi abbiamo il COBAT. Dico bene o ho sbagliato la sigla? COBAT. COBATAM. Vabbè, mo poi ce lo spiegate voi. Fra tante realtà, compagni molto conosciuti, e che lei il loro ruolo, con loro hanno sempre avuto un ruolo nell'ambito del conflitto a Roma, anche con tutti i limiti, con tutte le critiche, però nel conflitto poi alla fine le trovi. E volevamo pure capire, perché noi viviamo in una fase in cui vediamo chiusi dentro i CIE, dentro i campi di concentramento che stanno all'esterno, centinaia, migliaia di proletari internazionali, perché quelli le chiama migranti, extracomunitari e via dicendo, proletari internazionali costretti a ramingare per il mondo per cercare di sopravvivere. L'accoglienza è quella, poi le chiudono, le trattano male in questo modo, e poi per motivi umanitari partono quei bombardieri, no? Per motivi umanitari, e buttano bombe, missili con l'uranio impoverito e via dicendo. Tutte queste contraddizioni che sta società, questo modello di sviluppo ci pone davanti. In più abbiamo un governo inesistente, no? Proprio di fatto ormai è una cosa ridicola pure parlarne di questa cosa per definirlo governo, con opposizione che fa parte del teatrino della politica, perché gli fa da spalla, no? Come Totò e Peppino, ma sembrano, ha capito? I compari di Pisa che litigano nella notte e litigano di giorno, e la notte si fanno i portafogli della gente. Insomma, questo clima, tutte queste realtà antagoniste che proclamano fortemente di volere fare chi, la giornata della collera, chi, la giornata dell'indignazione, però ognuno da solo, da separato, anche con le stessi, con gli stessi obiettivi, magari con dinamiche e modalità diverse, però ognuno per solo, ognuno di noi è debole. Se fossimo insieme, questo era lo scopo di questi confronti, capire per quale motivo non ci troviamo insieme e magari fare la giornata come da un paio d'anni mi sto buttando io, né di collera, a giornata di forconi, che tutto sommato era spontaneamente è successo per 2 o 3 ore il 14 dicembre, no? Se quella avrebbe avuto un seguito, perché quella fu una giornata di forconi, perché oggettivamente sui fatti sul campo nessuno lo può negare, i promotori di quella giornata, che furono la FIOM e furono Uniti contro la crisi, portarono in piazza, si utilizzò quella giornata per migliaia di persone a scendere in piazza. Come sono arrivati in piazza, si sono subito dissociati dalla piazza, all'inizio con le cascate, e alle 4 del pomeriggio col comunicato della FIOM che si dissociava di quello che stava avvenendo in piazza. Cioè una parte ha dato le cascate e si è dissociata di fatto sul campo, perché poi la piazza se l'è presa e ha fatto quello che ha voluto, e alle 4 col comunicato stampa della FIOM. Questa realtà, e fu una giornata che ha entusiasmato un po' tutti quanti, con la speranza che fosse l'inizio, però poi alla fine, come si dice, Natale epifania, ai studenti porta via pure il conflitto, perché noi parliamo per esempio autunno caldo, ma è venuto una volta l'autunno caldo, noi non possiamo aspettare che ci sia un altro autunno caldo, elemosinare ancora lo sciopero generale come che se fosse una cosa salvifica. Non è più così. Una volta, quando si facevano i scioperi generali solo perché lo proclamavi, cascavano i governi, adesso te fanno fare la passeggiata turistica per una giornata, strilli con i peggio slogan contro questo, contro quello, e il giorno dopo si ritorna alla vita quotidiana nell'indifferenza totale di chi l'ha organizzato e di tutti. Allora oggi ci vuole qualche altra cosa, questa cosa va fatta da tutti quelli come noi, tignosi, che vogliamo pensare alla cosa, che non è che dobbiamo aspettare lo sciopero generale o dobbiamo aspettare altre cose. Io penso che bisogna prendersi protagonismo e dire: no, noi non vogliamo più questo modello di sviluppo, vogliamo un'altra società, una società dei uguali, una società di giusti, e via tutto questo politicismo tangentista, di fatto, perché con le tangenti governano. L'unico problema che hanno è come salvare i propri privilegi a discapito di tutti. Mentre sta avvenendo questo, si sta preparando una cura greca che sicuramente in piena estate, come tutte le stagioni, prepareranno. L'Europa l'ha già preparata, già in Portogallo, in Irlanda, in Spagna la stanno sviluppando. In Italia ci sarà questo Tremonti, da tutti i segnali su questa questione. Noi diciamo questo: quando è il giorno X di rendersi conto che se stiamo ognuno per conto nostro ci continuano a dare e bastonate in testa, e se ci mettiamo insieme magari anche con le nostre contraddizioni, con le nostre divisioni, con i nostri personalismi, le mettiamo da parte, riusciamo a far mettere almeno per qualche giorno paura a questa gente. Su queste domande lascio la parola ai nostri ospiti di cominciare a dire il punto di vista loro, poi svilupperemo il discorso. È chiaro, chi vuole intervenire, il telefono è 49 17 50 06 49 17 50. La parola ai Combat. Sì. Buongiorno, io sono Pino. Io non credo di essere già conosciuto da questa radio, in quanto a telefonate e anche a partecipazione diretta a questa trasmissione che seguo da sempre. Oggi siamo qui un paio di amici, compagni, che della cosiddetta area combat, così come ci aveva presentato Ettore. Forse non è esattamente così, se avremo la possibilità lo spiegheremo, nel senso che non credo che siamo un'area, forse più una tendenza organizzativa. Parlando delle cose generali, forse si capisce meglio appunto quello che pensiamo. Spesso quello che pensiamo corrisponde con quello che pensa questa trasmissione, anche con quello che pensa questa radio. Spesso è così, alcune volte non è così. Sarà che è domenica, mi piace cominciare con la questione dei preti, sempre presenti. Sarà per il dono che li accomuna di essere in cielo, in terra, in ogni luogo. Stanno un po' dappertutto, sia dentro il Vaticano, sia dentro i movimenti, sia dentro le chiese, sia dentro gli immigrati, eccetera, eccetera. Il movimento dei preti dissenzienti, diciamo così, ha una storia lunga e direi tra virgolette gloriosa, nel senso che ci sono stati tempi e momenti in cui si esprimevano in maniera più completa, complessa, avevano più radicamento sociale. Parlo sempre degli anni 70, che molti di noi qui presenti hanno conosciuto direttamente. Faccio due esempi: l'abbate Franzoni e Don Gerardo Lutte. Lutte è un prete famoso anche per essere intervenuto direttamente nella questione dei borghetti e delle baracche qui in questa città, al Prenestino, al Casilino, eccetera. Io ho avuto l'onore anche di conoscerlo, una persona eccezionale, cioè effettivamente tutto proteso anche fisicamente, anche umanamente, al soccorso, diciamo così, dei cosiddetti deboli, no? Noi usiamo altri termini, però ci siamo capiti. Questo tipo di movimento dei preti del dissenso si riuniva intorno a una rivista che si chiamava Cristiani per il Socialismo. Ora, adesso la situazione mi appare un po' più complessa, nel senso che non c'è più questo tipo di movimento dei preti del dissenso, non c'è più il faro che diciamo aveva luogo geografico e di indicazione complessiva nel Latino America con la teologia della liberazione. Ci sono però alcuni preti, alcuni reverendi che continuano ad avere un certo tipo di posizione, a cui si richiamava pure Ettore nell'introduzione. Come la vedo io, e non è esattamente magari come la vedono altri compagni, penso, trattasi semplicemente di un intervento che un'organizzazione importante e internazionale come la Chiesa Cattolica fa anche dentro i movimenti, cioè un intervento da parte di preti importanti, sicuramente umanamente dotati e spinti da un rapporto importante tra fede e materialità, fanno un certo tipo di recupero intorno a fasce giovanili che potrebbero, è lì il problema, potrebbero spostarsi verso altre posizioni che hanno poco a che vedere sia col cattolicesimo che col cristianesimo, che forse con qualsiasi tipo di religione. Quindi in questo senso vedo questo tipo di atteggiamento qua. Il problema oggi è che anche questi preti qui, due o tre in tutta Italia, giustamente diceva Ettore all'inizio, non riescono a spostare più le masse che invece si sono spostate veramente. Quando parlo di masse non parlo purtroppo dei nostri appuntamenti, un po' quelli di tutti, che ormai si aggirano intorno alle centinaia di persone quando va bene. Parlo delle milioni di persone. Noi abbiamo visto nel 2003 manifestazioni in Italia, in Europa ma anche nel mondo che portavano in piazza milioni di persone. Cioè manifestazioni che finalmente rompevano il ghetto dell'autorappresentanza del movimento, dell'autorappresentanza, insomma, dei soliti noti che fanno le cose da mezzo secolo. Questo è successo perché non solo l'area dei preti del dissenso, ma l'intera Chiesa Cattolica, sotto la guida, io lo chiamo movimentista, cioè c'era questo tipo di linea, il Wojtyła, del movimentista Wojtyła, aveva scelto la pace integrale contro le guerre nel mondo e per questo motivo portò in piazza il cosiddetto popolo della pace, formato appunto di milioni di persone cattolici che si esprimevano per la pace integrale, analizzando poco il movimento delle cose, poco la questione concreta, materiale degli interessi in gioco, degli scontri interimperialistici in gioco anche allora, ma che però portavano in piazza milioni di persone. Oggi quel popolo non c'è più, perché a Wojtyła è succeduto un altro dirigente di quell'organizzazione, cioè il Papa attuale, quello che qualcuno ha chiamato il cane, come si chiama, il pastore tedesco, e questo pastore tedesco ha un'altra impostazione che comunque viene sintetizzata nell'agitazione della responsabilità dell'intervento. Quindi i cristiani non sono più per una pace integrale, i cattolici non sono più per una pace integrale, ma sono per la responsabilizzazione nell'intervento, un po' un appoggio quindi a un intervento umanitario, quello che anche la cosiddetta sinistra di Stato vede dominare tra le proprie idee. Credo che questa sia la spiegazione per cui oggi non abbiamo una vera risposta pacifista del popolo della pace in piazza alla guerra, all'ultima guerra, all'ultima avventura euroatlantica in Libia. Detto questo, e qui finisco pure perché sennò il comizio dura troppo, noi non siamo pacifisti e non siamo nemmeno contro tutte le guerre, penso di poter dire, insomma, mi guardo negli occhi con un altro compagno, non abbiamo un'altra impostazione, non, la pace e il lavoro, quello che, a cui fa appello Marco Rizzo oggi sul giornale in relazione alla manifestazione di ieri di Emergency, non sono certo il nostro programma. Crediamo che la pace e il lavoro salariato sia esattamente il programma dei padroni, un programma contro cui lottare, non contrapponendogli un'altra pace, ma facendo appello a un'altra guerra, cioè una guerra di interessi contrapposti, quella che chiamiamo guerra di classe. Bene. Bene, allora, adesso mettiamo uno stacco musicale e poi sviluppiamo. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Allora, tornando in diretta, no? Io nell'introduzione avevo fatto un giro molto largo di situazioni. Noi abbiamo, per esempio, sta guerra in corso e i campi di concentramento che stanno a nascere in tutte le regioni italiane. Stiamo vedendo quello che succede a Manduria, no? Che ci sono pure le ronde di privati razzisti che le copre la polizia e le vanno a raccogliere al posto di aiutare a scappare i proletari, le rinchiudono e glieli riportano ai poliziotti. Abbiamo visto anche queste scene. Stiamo vedendo quello che succede a Lampedusa, una popolazione che l'accoglie, ma una popolazione che si rende conto pure di non poter essere, no, sopraffatta da sta situazione. È uno Stato indifferente, non sa come uscirne, perché portare in giro per l'Italia, dato che ci sono le campagne elettorali, rischierebbe di perdere voti, perché loro puntano solo a questa cosa, cioè questo attacco. Questa è la conseguenza delle politiche coloniali imperialiste dell'Occidente. Per poter mantenere questo modello di sviluppo deve tenere sottosviluppati tutta una serie di situazioni. In questi stati, in queste situazioni, qualche ribellione si è presentata e sta adesso sviluppando un discorso che diventa di massa. Come ne possiamo uscire? Ecco, quando dico tutti separati, noi siamo deboli, se noi non ci mettiamo insieme e randellate ce danno a noi. Sì, il discorso è la guerra comunque pone sul campo dei paradigmi e delle questioni che necessariamente modificano pure a volte il senso del discorso. Noi abbiamo partecipato, abbiamo organizzato insieme a altri compagni a Tor Vergata un tavolo internazionalista qualche settimana fa all'interno di una 3 giorni antifascista per contrastare l'intervento di Casa Pound in quell'università, tra l'altro molto riuscita, anche competente, anche molto attraversata da ragazzi, da giovani, da universitari. Tavolo internazionale che poneva una questione che poi ci riporta a casa nostra, per cui queste guerre che sembrano lontane in realtà tanto lontane poi alla fine non sono, e non solo per responsabilità che tutti i compagni e le compagne hanno denunciato dello Stato, dell'economia italiana, europea sul terreno, gli interessi di Finmeccanica, gli interessi dell'ENI, gli interessi di società come l'Impregilo, gli interessi di consorzi edili e di costruzione di infrastrutture di autostrade del governo là, ma perché poi, come diceva giustamente Ettore, questi individui, queste persone che subiscono le conseguenze della guerra ce le troviamo da noi, perché cominciano, perché arrivano, perché si muovono, perché scappano, perché cercano, perché vogliono, perché desiderano, perché amano, perché non sono disposti a rimanere nella miseria. E quindi ci troviamo poi nei nostri territori, nei nostri quartieri, non soltanto davanti ai CIE, davanti ai centri di identificazione che erano centri di permanenza temporanea, che erano centri di fatto di detenzione se non centri di concentramento, centri concentramento è quasi nella parola stessa, ma anche nei quartieri, perché c'è anche l'immigrazione cosiddetta normale, quella legale, non solo quella dei disperati, ma quella dei disperati che hanno avuto il permesso di poter essere un po' meno disperati, ma in realtà disperati sono uguali, e sono anche più simili poi ai disperati italiani, diventa. E su quello, come Combat, nelle articolazioni anche territoriali che poi abbiamo come, diciamo, sintesi politica che ha questo nome, che poi è un nome di battaglia, un nome che auspica, spera e augura quel movimento anche di Forconi, qualche modo, che diceva Ettore, quindi lo persegue, cerca di anticiparlo in alcuni contesti, in alcuni momenti, a volte anche magari forse troppo in anticipo rispetto a alcuni tempi un po' più lenti, un po' più pazienti, un po' più cauti di altri compagni che magari temono di poter perdere, che si perda qualche cosa. Nel territorio abbiamo cercato di interagire, territori come Tor Pignattara, territori come il Quadraro, dove da anni comunque sia come comitati ci muoviamo, non sempre insieme ad altri compagni, ma recentemente sempre più insieme ad altri compagni sul livello territoriale, anche nelle differenze delle prospettive politiche, perché c'è questa immigrazione normale che va intercettata, va conosciuta. Un'immigrazione che si riempie anche di temi come quella della guerra, proprio perché diventa una pace di sfruttamento, una pace di lavoro, di abbassamento di testa, di accettazione di condizioni di vita e di subalternità pesante e pressante. Cioè, il connubio tra insurrezioni nel Nord Africa e migrazioni qua è fondamentale, non solo nella tragedia dei gommoni, non solo nella tragedia immane dei CIE, non solo nella tragedia delle famiglie spodestate o altro, ma proprio nella meno tragedia, in qualche modo per noi nella convenienza, nell'evento della realtà in quanto tale, della contaminazione alla fine tra italiani e immigrati. Questa è una contaminazione pericolosa, a volte sfocia anche in tensioni etniche e altre questioni, ma su cui i compagni hanno tanto lavorato e stanno cercando di lavorare, facendo scuole di italiano per immigrati, intercettando, intervenendo laddove ci stanno problemi sull'abitativo, problemi sul sindacale, cercando anche di creare una coscienza sindacale, una coscienza di rivendicazione dei diritti che magari non c'è anche per il ricatto in cui si è posti. E su questo lavoriamo, cerchiamo appunto di lavorare sempre appunto nell'idea che la guerra poi è qua, che guerra e pace sono comunque facce della medaglia, in cui senza che alla fine in qualche modo il pacifismo entra in campo soltanto quando c'è lo scoppio della guerra, a parte che sono cinque guerre che alla fine si accavallano dai tempi dalla caduta del muro come momento fondamentale, dal 91. Cinque guerre, tra l'altro, votate da tutto lo schieramento dell'arco politico principale, a parte qualche oscillazione della sinistra radicale di Stato, di cedimenti di altri, sono guerre che hanno trovato il consenso largo. Guerre di spoliazione, guerre di sfruttamento, ma guerre che stanno all'interno di un ciclo produttivo. Ciclo produttivo all'interno di interessi economici che ci portano qua ad avere poi quelle conseguenze effettive e non sempre in qualche modo negative, di persone che vengono con il loro portato. Oggi ci stanno i tunisini con cui abbiamo parlato recentemente, la nuova leva di tunisini che è riuscita ad arrivare un po' prima di quest'ultima ondata un po' più disperata in qualche modo, che sono persone coscienti, persone che sono uscite da un'insurrezione, persone che hanno più da raccontare di noi, più di raccontare del movimento italiano. Perché? Perché hanno avuto un'insurrezione con tutti i limiti, con tutte le direzioni altrui, con tutte le culture tradizionali che si portano appresso, anche religiose, ma sono usciti da un compagno tunisino, che Yassin, con cui abbiamo parlato a Tor Vergata, abbiamo parlato anche ieri a Ben Ci Venga, un'iniziativa sempre internazionale che abbiamo fatto. Un compagno che ha una sua personalità che non è necessariamente la nostra, che non è necessariamente la nostra cultura laica, libertaria, le nostre risposte, le nostre certezze. Ogni tanto vive però la sua vita e sta guardando al mondo, cosa che tra l'altro noi ogni tanto dimentichiamo, perché spesso e volentieri come movimento noi altri guardiamo ai nostri orticelli, guardiamo ai nostri territori, ci guardiamo accanto, non ci riconosciamo, ci odiamo quasi uno con l'altro, ci disprezziamo quasi a vicenda. Lui guarda al mondo, cioè, agli occhi di uno che è felice di parlare con te, è felice di conoscere altre situazioni, pur venendo da una cultura come quella tunisina, che riscattata in qualche modo dall'insurrezione, ma non perché hanno cambiato la classe dirigente di quel paese, che intanto una classe dirigente che sostituisce l'altra salva i contratti internazionali, salva il debito pubblico, garantisce alla comunità internazionale che certi accordi non verranno in qualche modo toccati, quindi si fa un cambio, si ammazza il tiranno, si rigenera la classe dirigente e si va avanti, ma a livello popolare, e questi tunisini stanno bussando alle nostre porte, stanno arrivando, sono arrivati, ma sono arrivati perché cessano di essere tunisini, sono uomini e donne. Allora, il discorso che noi abbiamo trovato e cerchiamo di fare all'interno della comunità degli immigrati, della lotta agli immigrati, è un discorso anche in qualche modo, come spesso ci caratterizza, anche un po' provocatorio e per certi sensi, come dire, conflittuale anche nei dirigenti classici del movimento degli immigrati. Il discorso di rompere, frantumare, disintegrare i confini della comunità etnica, che poi è il motivo che, per cui a Roma è sempre stato difficile fare intervento sugli immigrati. L'equatoregno fa le cose con l'equatoregno, il tunisino fa le cose col tunisino, non è soltanto una questione quindi di italiani e immigrati, questo su tutti ci stiamo. Anche non riconoscere in alcuni autoproclamati dirigenti di comunità con nomi più o meno pittoreschi che si promuovono come possibile futura classe dirigente di una fantomatica massa lobby degli immigrati, per spezzare questi confini, perché poi se, la guerra, il capitale, lo Stato spezza i confini, perché siamo noi a doverli rimettere? Mi chiedo e ci chiediamo. Di fatto questi confini sono rotti e noi dobbiamo approfondire questa frattura. Dobbiamo rompere, specie nel Mediterraneo, che poi è in qualche modo il quadrante dove lavoriamo, dove i compagni hanno lavorato, dove dall'esperienza di Rosarno in poi ci ha insegnato di come poi alcune nostre anche gabbie mentali vengono distrutte dalla realtà dei fatti materiali, dalle rivolte da noi non contaminate, quindi forse tante volte più efficaci, purtroppo questo poi lo sappiamo. E da quel punto di vista continuiamo a rompere questi confini, continuiamo a rompere i confini pure mentali che abbiamo noi. No, semmai se volevamo un po' approfondire, diciamo, alcune problematiche che sono entrate in discussione, no? Abbiamo parlato di immigrazione, di rivolta nel Maghreb, quindi della guerra di Libia poi anche, no? Perché le cose sono un po' collegate tutte quante, insomma. L'altra domenica constatavamo sostanzialmente che c'è una subalternità, diciamo, di carattere proprio culturale da parte della cosiddetta sinistra in genere e purtroppo devo dire anche della sinistra cosiddetta radicale, magari in modo diverso, nel senso che quella, diciamo, istituzionale si affida a vaghi principi, no? Mentre magari quella radicale appunto è più radicata sulla questione dei principi o sulle questioni più ideologiche. Però effettivamente non ci sono idee forza che riescono a seguito quindi appunto di una analisi puntuale, quindi di un pensiero emergente che possa, no, diventare aggregante rispetto a grosse problematiche. E questo purtroppo è un dato di fatto di cui poi scontiamo le conseguenze, nel senso che abbiamo visto anche ieri Piazza Navona, insomma, la povertà sia di contenuti sia di numeri, eppure questo dovrebbe far riflettere, perché quella non era una manifestazione, come dire, caratterizzata in termini di classe, era una manifestazione che poteva trasversale, se vogliamo, no? A tutti coloro che si riconoscono quelle che chiamano società civili, no? Sui principi appunto del pacifismo contro la guerra, eccetera. E però, insomma, evidentemente c'è qualcosa che non funziona più in questo senso. E magari, insomma, se ci mettessimo un po' tutti quanti, ognuno ovviamente dalle sue esperienze, dei suoi luoghi, a dare un contributo per ricreare un pensiero egemone, no? E alternativo. Non più affidandoci a luoghi comuni ormai scontati o solo ai principi che vanno salvaguardati sempre e comunque, ma che devono essere rafforzati magari anche da altro, appunto, da analisi, eccetera. Parlavamo delle rivolte in Maghreb, certamente non sono rivolte di classe, ma d'altronde le rivolte di classe non ci stanno manco qua, insomma, non si può pretendere che ci siano lì, insomma, no? Situazioni in cui diciamo lo sviluppo, l'evolversi della storia di quei paesi che sono passati praticamente dal colonialismo a dittature, no? Non ha, e poi nella mancanza di uno sviluppo economico, quindi assenza di borghesia, no? Ma solo di elite di potere fidelizzati all'Occidente, ovviamente, perché quella era la loro funzione, cioè devono essere regimi, no? Fidelizzati all'Occidente, agli interessi dell'Occidente. E ovviamente oggi le rivolte a cui abbiamo assistito nel Maghreb possiamo definirle delle rivolte più civili, no? Che politiche tout court intese in termini di classe, insomma. Evidentemente sono popolazioni, specialmente, poi ricordiamo appunto un dato che spesso è stato detto, che sono popolazioni estremamente giovani, cioè la media età, insomma, è di 20-25 anni, a fronte di paesi invece vecchi come quelli appunto europei, che evidentemente, insomma, hanno anche un altro tipo di cultura, sono più contaminati, cioè sanno come si vive, no, in altri paesi, cioè. Tutto ciò, ripeto, non si è tradotto e non si può tradurre oggettivamente in una rivolta di classe, ma sicuramente in una richiesta di maggiori libertà civili, no? Di poter vivere in maniera, diciamo, se vogliamo, e purtroppo questo è un dato non positivo, in maniera più occidentale. Tant'è che uno dei dati positivi è che finora non abbiamo assistito a rivendicazioni di tipo religioso, no? Sembrerebbero rivolte abbastanza laiche in questo senso qua, e questo è un dato positivo che fa ben sperare per il futuro, sempre che, no, non ci sia la sorpresa poi in una seconda battuta. Oggi c'è un'intervista al leghista Salvini proprio sulla questione dell'immigrazione. Salvini, ricordiamo, era appunto quel soggettaccio che andava nelle osterie, no, con i suoi compari leghisti a cantare canzoni contro i napoletani, insomma, tanto per dare un po', inquadrare un po' il soggetto. La Lega, lo sappiamo, è xenofoba, estremamente provinciale, nel senso che vede e guarda esclusivamente gli interessi locali. Però c'è l'espressione del Ministero degli Interni. Ma infatti questa è una contraddizione, se vogliamo, perché un'espressione politica che è strettamente correlata e condizionata dal suo localismo, no? Se tu gli dai una rappresentazione di carattere nazionale, ovviamente poi i problemi vengono fuori. Allora, tutta la gestione sull'immigrazione è ovvio che è stata manipolata ad arte. Questi signori della Lega erano stati tra i primi a sventolare il pericolo della grande invasione, dell'esodo biblico che sarebbe arrivato in Italia, dopodiché uno si aspettava, no, che si fossero attrezzati in questo senso, perché hanno da una parte gridato al lupo, quando il lupo, tra virgolette, è arrivato, no, abbiamo assistito a una situazione vergognosa, no, di cui dobbiamo vergognarci tutti quanti, perché poi, anche se non abbiamo il potere, non siamo stati in grado, insomma, in qualche misura di, come dire, condizionare questa situazione. Qui migliaia di tunisini sono arrivati a Lampedusa, che è stata lasciata appositamente da sola, proprio perché da una parte bisognava sollevare, no, la grande fobia dell'invasione e quindi giustificare anche le posizioni xenofobe. Oggi ovviamente sono costretti a intervenire in qualche misura, perché pure i lampedusani, nella loro, come dire, un po' confusione e contraddittorietà, hanno capito che il problema non erano gli immigrati tout court, il problema era l'inerzia del governo in questi termini qua. Io penso che anche in un'ottica, come dire, un'ottica loro, la cosa migliore che avrebbero potuto fare, e ripeto, ottica loro, no, come loro vedono l'invasione migratoria, è quella che ha tirato fuori pochi giorni fa il dimissionario Mantovano. Dice: gli diamo permesso dei 3 mesi, questi, lo sappiamo, al 90% vogliono andare tutti in Francia o in Germania per vari motivi, insomma, no? Uno è che spesso hanno un parente là e quindi un ricongiungimento, due perché sono francofoni, no, per quanto riguarda la Francia, e terzo perché sanno bene che ci sono più opportunità di lavoro in Francia, in Germania o in Svizzera piuttosto che in Italia. Quindi bastava utilizzare, no, questa storia dei permessi, questi avrebbero avuto libera circolazione e avrebbero tentato, come già stanno facendo, di entrare in Francia, che li respinge. Ecco, su questo magari potremmo fare una riflessione, vediamo un po' anche voi come vedete questa questione, poi magari passiamo anche alla guerra di Libia. No, volevo solo dire una cosa, che a noi 20.000 persone stanno facendo sto popo di casino, lager da tutti i vizi, 180.000 persone in pochi giorni la Tunisia l'ha ospitati, l'ha nutriti, che qui manco da magnaia avevamo dato, ha fatto di tutto, mettendosi in campo la popolazione, neanche perché con quello che era successo in Tunisia, no, non c'era manco una direzione, un governo vero. La gente normale si è attrezzata e ancora gestisce quel campo di profughi usciti, lavoratori proletari usciti dalla Libia. Cioè hanno dato questa sensazione. Noi questo stiamo facendo con solo 20.000 persone, una nazione tra le più potenti del mondo, come si autodefiniscono. L'utilizzo politico dell'immigrazione da parte non solo della Lega, ma di tutto il panorama politico, poi oggi non è di oggi, è di ieri o di l'altro ieri la notizia che il Ministero degli Interni francese ha comunque appoggiato in toto la linea italiana del respingimento degli immigrati, perché comincia a diventare comunque una questione di nuova europea, dopo che è saltato il gendarme Gheddafi, colui che in qualche modo comprimeva poi questo fenomeno. La Lega poi è un fenomeno, si aprirebbe il discorso, perché è vero che è localista, è vero che pone problemi, ma paradossalmente è più europea adesso di tante altre situazioni, proprio perché va a non porsi una dimensione nazionale se non nelle sue articolazioni formali in qualche modo, cioè il ministero, ma dal punto di vista finanziario, l'occupazione delle banche, l'occupazione dell'industria, ha una prospettiva comunque di nuovo blocco vincente, quello del nord economicamente competitivo a livello europeo. Si muovono a livello europeo, in questo hanno a volte anche più credibilità di quanto pensiamo a livello europeo, sicuramente di quanta più ne ha il nano che in qualche modo rappresenta questo governo. Discorso dell'immigrazione, appunto, è un discorso che si collega all'insurrezione non solo in Libia, nel nord, così evidentemente come oggi, come forse non è mai stata. È evidente il discorso, il connubio che c'è tra la cosiddetta guerra, che poi di fatto sono ormai operazioni di polizia internazionale a tutti gli effetti, con quello che poi è anche una questione della gestione del conflitto interno, della gestione del concentramento, non solo come CIE, ribadisco, non solo nell'immigrazione normale, il CIE ovunque, il CIE a 20 miglia, davanti alla frontiera francese, dove si stanno creando e ammassando immigrati in attesa di poter pensare di passare. I CIE sono nei campi, i CIE sono nelle tendopoli di Manduria improvvisate dopo una fuga meravigliosa, perché quando si vedono migranti o comunque gente privata della libertà che corre e fugge, sempre un momento bello dal punto di vista anche estetico. Però dobbiamo anche chiamare col loro nome quelli che sono limiti nostri, cioè, perché in tutto ciò sembra che arriviamo sempre un po' in ritardo, sempre un po' a ricasco. Il compagno diceva prima, ci stanno delle routine, dei modi in qualche modo ormai tradizionali del movimento di affrontare queste questioni, che adesso sembrano ogni tanto inadeguate. Dei nomi ce li hanno, cioè, tipo la teoria, la questione del colonialismo, la questione del terzo mondismo, la questione di trattare i dannati della terra sempre come persone in qualche modo innocenti e pure, e in un certo qual senso colpite dalla violenza dell'Occidente, è una visione che non ha più riflesso nella realtà proprio da parte loro. Cioè, sono loro i primi a dirti: non me ne frega nulla del tuo appoggio, non me ne frega niente della tua pietà, del tuo compatire il nostro intervento. Persone che si pongono verso valori che sono quelli che sono anche i nostri: il miglioramento della propria vita, il miglioramento della propria condizione, si pongono in prospettiva internazionale, per quello attraversano, ma non più, sanno di non andare in cerca di qualcosa di meglio, perché sicuramente non attraverserebbero l'Italia per finire in una periferia parigina, dove sanno perfettamente che non saranno meglio che nella periferia di Tunisi, probabilmente, se non in una rete che è già fatta e già collegata. Ma questa crisi sta insegnandoci a rompere pure quella che era ed è, ma non porta neanche più in piazza, la vecchia distinzione del movimento. Il colpevole sta da noi, l'innocente sta di là e dobbiamo aiutarlo a... Questi ci stanno scavalcando, cioè ci scavalcano, ci pongono delle domande nuove. E non solo a noi, che a volte non siamo neanche capaci di essere ricettori di domande. ma se le pongono da sole, ed è una rivolta di dignità e di autonomia, in cui non c'è più voglia di sentirsi rappresentati da organismi internazionali. In più, è vero che mancano componenti religiose, almeno negli obiettivi della protesta, perché poi in chi li compone ci sono elementi religiosi, perché necessariamente ci sono. È vero che i compagni denunciano, cioè si scornano, dicono che non ci stanno elementi di classe, ma in realtà neanche quello è troppo vero, perché in Egitto l'elemento di classe c'è stato. Dal 2003 l'ondata di scioperi e di occupazione di fabbriche che ha mobilitato migliaia di persone, peraltro qua nella sede di questa radio Africa in Movimento, la trasmissione di sabato mattina, i temi e anche, diciamo, l'analisi un po' più profonda, che adesso non è inutile che, su cui ci soffermiamo, l'ha affrontata, ha dato qualità, al di fuori appunto di alcune anche altre prospettive più legate alla questione dell'emergenza, del qua non è più un'emergenza, non è una questione di emergenza guerra, di emergency, cioè non perché sto parlando contro emergency, anzi è una delle poche espressioni della società civili che in qualche modo ci possono stare simpatiche nel sacrificio che i loro militanti fanno andando in territorio in terreni. Ma l'emergency non è più emergency. Il paradigma dell'emergenza, che poi lo Stato ha fatto proprio con Bertolaso, con i terremoti, con gli tsunami, con il nucleare, con la guerra, è sempre più normalità. E noi dobbiamo riconquistarci questa normalità, riassaggiarla, non rincorrere, non arrivare tardi, non aspettare il momento fatidico, non aspettare la dannazione, l'apocalisse, non sarà presso a teorie dell'apocalisse del terzo mondo. Il terzo mondo non è più terzo mondo, è il mondo. Quello poi è quello che ci insegna, e su quello si va la necessità di articolare pure un nuovo tipo di approccio anche all'intervento territoriale, che tra l'altro non solo noi, ma in realtà anche altri compagni a Roma, in Italia, fanno su prospettive differenti. C'è sempre più quella della contaminazione, sempre meno quella la questione, diciamo, dell'appoggio e della solidarietà, ma magari della complicità, che è già una cosa differente. Una questione di un intervento territoriale che sia efficace nel lavorare con loro. Effettivamente questa cosa a noi ci ha dato anche dei risultati e dei frutti non indifferenti. E la paradigma dello scontro di civiltà, al contrario, come lo chiamo io a volte, in cui pare che no, siamo contro lo scontro di civiltà, però i buoni sono gli altri, cioè gli altri buoni sono l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia, a seconda, diciamo, i Balcani all'epoca, che una parte del movimento, per fortuna maggioritaria, ha sempre denunciato, cioè, nel senso, non siamo con i tiranni, non siamo con i regimi, non ci difendiamo quella cozzaglia di pagliacci buffoni impomatati e medagliati con foto improbabili, quelli sì, i ribelli all'Omar libico che c'aveva Gheddafi sul petto, quelli sì, persone che avevano degni di rispetto e di storia. E su quella, lo scontro di civiltà va superato. Cioè, lo scontro di civiltà è qua, è adesso, è ora, perché qua adesso e ora ci stanno loro, perché qua adesso e ora ci stiamo tutti, perché Mediterraneo in particolare, questa cosa oggi come non mai è un quadrante su cui simbolico, emblematico, ma anche dove lo scontro, il conflitto divampa. E divampa anche in Italia, perché il 14 dicembre non si è esaurito. Il 14 dicembre, quella spinta del 14 dicembre si è esaurito per chi l'ha voluto e chi ha pensato che potesse essere riassorbito. In realtà, quando incontro, sempre come ieri, iniziative, ragazzi 18, 17 anni, fuori da ogni tipo di pregiudizio in qualche modo militare, militante di movimento, venire a iniziative in centri sociali, ex novo, parlando di politica, non semplicemente in qualche modo, parlando di politica, parlando magari, ieri c'era un ragazzo che diceva io voglio fare il soldato. Che sei pazzo, come vuoi fare il soldato? Vuole fare il soldato, da 18 anni vuole fare il soldato. Perché? Perché vuole fare qualcosa di importante dal suo punto di vista. No, perché hanno 200.000 cose importanti da fare piuttosto che fare il soldato, anche specialmente adesso. Però un ragazzetto che ha partecipato anche al 14 dicembre, che c'è stato, che ha avuto modo di conoscere i compagni, che in qualche modo è un punto di riferimento, in qualche modo va lavorato. Quella là è un'onda lunga, sotterranea, non è solo la rappresentazione politica, mediatica, simbolica, storica del 14 dicembre. Tra l'altro a giugno ci saranno i 10 anni, no? Dalle giornate di Genova, dove le rappresentazioni simboliche, estetiche, mediatiche, liturgiche, ce l'hanno abbastanza menata, insomma, questi anni. Là ci sarà un po' una summa, ci sarebbe anche bisogno di un bel esame di coscienza, di un bilancio reale, pure autocritico, dico. Molto autocritico, sì, molto autocritico, ma molto autocritico da parte di tutti quanti, ma per forza, cioè tutto ciò combat è un percorso di autocritica. Ora, senza esagerarla, senza dire che è un percorso d'autocoscienza, che sennò se sembra che siamo no, un percorso di lavoro, di intervento territoriale, di auto-organizzazione nei posti di lavoro, un percorso che ci pone pure in relazione con altri compagni dello cittadino, come magari altre volte non è stato più difficile, ma un percorso anche di scioglimento. Noi ci siamo sciolti, noi venivamo dall'esperienza storica dell'autonomia di classe. Galliano Nazionale Cittadino ha prodotto, con tutte le controversie del caso, una serie di passaggi, ha posto dei problemi, ha posto un certo tipo di lavoro. Ci siamo sciolti, non solo perché ci siamo resi conto che alla fine l'auto decantazione di una serie di nomi, di farsi eredi e portatori di una tradizione storica che comunque sia alla fine nei fatti si era disgregata e disintegrata, era abbastanza inutile e quasi ridicolo, ma proprio perché in realtà nello scioglimento ci trovavamo delle qualità, cioè quell'autocritica che dici te, che dopo Genova, da Genova in poi c'è stato un processo di lacerazioni magmatico di ricostituzione. In quella mia generazione, io sono Bobbo, un compagno del Quadraro, 35 anni, dice che se ne frega, c'è 35 anni, però per capire qual è il tipo di generazione, ha vissuto e è stata investita in pieno. Qui non si capiva che si doveva fare, non si capiva chi erano gli amici, chi erano i nemici, chi erano i solidali, chi erano i complici, chi erano i compagni, chi erano gli opportunisti, chi erano... Cioè, qualche volta si capiva, qualche volta meno, qualche volta non ci interessava capirlo, perché non è che stiamo facendo la classifica dei più puri e dei duri. Oggi quel percorso di scioglimento da Genova, parlavamo di immigrazione e di insurrezione, perché ti invitano in qualche modo a sciogliere il tuo orticello, a sciogliere la tua organizzazioncina, a sciogliere il tuo gruppetto autoreferenziale, la tua l'idea del 10 bandiere per ogni persona, cioè la gente che se la mette sulla schiena per autorappresentarsi nel decimo millesimo partito X o sindacatino Y, è un'idea che continuiamo a portare. Abbiamo una prospettiva, una tendenza, una voglia di creare a Roma e da altre parti un'organizzazione autonoma, non lo nascondiamo, ricreare un meccanismo di organizzazione autonoma, ma partendo anche dallo scioglimento, cioè senza fare una cozzaglia di sigle come poi per anni è stato, cioè io me lo ricordo, ma noi stessi siamo stati, a proposito di autocritiche, a volte trovavi 10 firme, la stessa cosa, se non 100 firme, fantomatiche di 50 partecipanti. Perché? Che senso c'ha? Questa tra l'altro sensibilità, questa tendenza è già negli atti. Sono più le manifestazioni in cui si pone il problema. Non portate bandiere. Cerchiamo di essere più scevri, più liberi da alcune contaminazioni. Però alcuni percorsi ancora si pongono il problema del rigenerare queste sigle, queste bandiere, queste. Noi abbiamo nel nostro piccolo, ci siamo sciolti, la famosa bandiera che ogni tanto appare, autonomia contro potere, nei vari momenti conflittuali in tutta Europa, perché c'è sempre il portabandiere della situazione, anche nostro, non ci sono più, non le portiamo, non ha senso, ti autorappresenti, a chi lo dici, a chi comunichi, quando poi hai il tunisino che ti pone davanti a te dei problemi nuovi, la voglia di fare organizzazione, ma di farla, di essere, di sentirla l'organizzazione, anche internazionale, ma soprattutto personale. Però scusa, ti interrompo, perché questo è un punto importante, no? Nel senso che può trovare da parte mia molta convergenza su alcune questioni, ma il problema è se esiste, e io faccio fatica insomma a individuarlo, se esiste un pensiero aggregante, no? Perché poi il problema delle bandiere da dove nasce? Secondo me nasce dal fatto che ognuno ha una sua visione, diciamo, politica, ideologica, d'analisi, che in qualche modo ritiene che si differenzi, no, dalla mia, dalla tua, e quindi tende a rappresentare questa diversità col suo emblema, che può essere la bandiera o qualsiasi altra cosa. Se torniamo un pochino nel passato, che ne so, ci ricordiamo del 68, del 77, c'era un pensiero egemone che in qualche misura, no, poteva essere un elemento, come dire, di ricomposizione, anche se c'erano mille gruppuscoli, no, vari partiti marxisti-leninisti e così via, però c'era un pensiero aggregante, diciamo, al massimo possiamo dire che c'erano due poli, no? Uno più marxista-leninista, duro e puro, che però era appunto legato a un dogmatismo, come dire, cristallizzato del pensiero marxista, e un altro che poi era quello vincente, perlomeno come espansione, come dire, maggiore adesione, che era, diciamo, un pensiero che aveva sì radici marxiane o marxiste, ma era libertario e critico, no? Rispetto a esperienze del socialismo reale, eccetera, eccetera. Chiaramente tutto riaffondava poi sulla valorizzazione della resistenza, no? Eccetera. Dopodiché però c'è stata una sconfitta, penso io, a livello proprio culturale, per cui alla fine si è buttato bambino e acqua sporca. Cioè questo pensiero libertario, no? Un nuovo pensiero rivoluzionario, libertario, che era in grado di accogliere le nuove richieste che emergevano, che non potevano essere agganciate appunto a una cristallizzazione dogmatica del pensiero marxiano o marxista, è venuto meno e oggi, che ci piaccia o no, non parlo dei singoli ovviamente, che ci piaccia o no, è egemone un pensiero di carattere capitalistico. Cioè tutto il mondo, no? Oggi viviamo in un mondo che è capitalista, con le varie sfumature, dalla Cina agli Stati Uniti, ma voglio dire, tutti gli scontri che ci sono oggi nel mondo sono scontri, almeno nella loro rappresentazione maggiore, scontri intercapitalistici, no? La Cina, i paesi emergenti, la Russia, sono paesi capitalistici, anche la Cina è un paese capitalismo di Stato. Dall'altra parte c'è questo pseudo pensiero occidentale capitalista che dice però noi, no, alziamo la bandiera della libertà, no, nei confronti di altri paesi che sono invece più soffocati da questo punto di vista. Ma in tutto ciò un pensiero appunto che, ripeto, è quello che dovremmo riuscire un po' tutti quanti a cercare di fare emergere, è appunto un pensiero nuovo che affonda sì le sue radici nelle grandi lotte del passato, anche del pensiero del passato, che va, che ne so, dagli anarchici al socialismo utopista, a Marx, eccetera, per arrivare a qualcosa di nuovo. Ma sto qualcosa di nuovo, io purtroppo, no? Sì, ci sono singoli, ci sono piccole cose qua e là, ma non è egemone, cioè, o comunque non... Se c'è, non emerge, questo volevo dire. E volevo capire un po' la vostra posizione rispetto a questo, perché ripeto, qui non si parla di singoli, perché se deve parlare, che ne so, Pino, te o io, possiamo dire la nostra, no? Quindi è un discorso un po' più generale. Sì, io ho l'abitudine, quando mi trovo in difficoltà nel capire quello che mi succede intorno, cerco spiegazioni sempre nei soliti libri, che appunto non sono cristallizzazioni per quanto mi riguarda, ma nel rifiuto appunto di queste cristallizzazioni, di questa versione dogmatica, ineluttabile, no, invariabile del marxismo, insomma, ne fa, per quanto mi riguarda, un metodo di indagine e di comprensione, un tentativo di comprensione della realtà che va oltre appunto le liturgie, no? La stessa cosa che 40 anni fa direi anche qualcosa di più. Insomma, io, ragazzo del Tiburtino, trovai in un libro che si chiamava La situazione della classe operaria in Inghilterra di Engels, il famoso amico di Marx, nonché compagno nostro, insomma, con rispetto parlando, trovai in quel libro le spiegazioni della mia condizione di quel quartiere, la mia vita, e quello mi avvicinò a quelle idee da cui ho cercato di non staccarmi mai, pur con qualche diciamo dubbio, insomma, che viene legittimo nel tempo. Anche adesso la stessa cosa, cioè periodo di cosiddetta grande confusione, situazione assolutamente non eccellente, e allora arrivato, diciamo, a quel metodo per cercare di spiegarmi la realtà. Ovviamente non è un esercizio che può essere fatto singolarmente, cioè non, per quanto mi riguarda non sono per nulla interessato ai gruppi di studio, ai club di discussione o alle mille partecipazioni come ospite in qualche cosa. Mi interessa a livello collettivo, direi a livello organizzativo, cioè, quindi riandare a quel metodo di analisi della realtà ci può aiutare, a mio parere, nella comprensione di quello che accade. Ovviamente la comprensione non basta, noi siamo per la rivoluzione, non siamo per lo studio del capitalismo, perché questo lo fanno meglio di noi i borghesi, lo fanno meglio di noi i preti, lo fanno meglio di noi... Quindi noi siamo per questo. Quindi utilizziamo questo tipo di metodo per capire la realtà, andando oltre le liturgie. Già accennava Bob, Roberto, insomma i compagni qui, mi sembra che queste cose ce l'abbiano abbastanza chiare, ma anche rispetto alla guerra, cioè la guerra del petrolio è uno slogan agitatorio, che è una sintesi agitatoria che però non dice tutta la verità. Poi, se ci avrò un attimo di tempo, cercherò di dire anche la mia, la nostra, su questa questione della guerra di Libia, sull'ultima guerra del nuovo millennio, una guerra dentro la crisi che ridisegna i contorni dei rapporti di forza tra le potenze e tra i blocchi continentali imperialistici. Fa un sacco di cose questa guerra, non è soltanto una guerra del petrolio, è una guerra più europea che euroatlantica, più europea che americana. Sarà anche questo un motivo per cui il movimento pacifista, condizionato da 50 anni del partito camionista italiano, non scende in piazza, perché trovava nell'imperialismo americano l'unico imperialismo nemico, e invece vediamo che l'imperialismo ce l'abbiamo dentro casa nostra, è più difficile lottare contro i padroni in casa nostra. Un vecchio slogan di un gruppetto di tanti anni fa, Potere Operaio si chiamava, in cui io sono pure stato per alcuni anni, diceva che più la rivoluzione è lontana e più la appoggiamo, più si avvicina e più diventa un problema per tanti opportunisti e per tanti social imperialisti, cioè per quelli che hanno appoggiato già nei decenni passati strutturazione, la concentrazione, la centralizzazione del processo di blocco continentale europeo in forma imperialista, con la sintesi dell'Europa sociale, no? Hanno appoggiato quello prendendosela con Bush, che era l'esportatore armato della democrazia. Adesso Bush non ci sta più, ci sta Obama, l'America sta in crisi, vive un indebolimento relativo sullo scacchiere internazionale, è più difficile essere antiimperialisti e ci si rifugia addirittura nella bocca di qualcuno nei soliti colonnelli antiimperialisti, ricordando i 20 anni fa di Gheddafi, che era pure lui, dicono loro, antiimperialista. Però, per tornare alla questione, allora, la questione che abbiamo affrontato noi, sulle spalle di esperienze anche costose da un punto di vista personale, legale, cioè abbiamo avuto dei problemi, insomma, nei tentativi che abbiamo fatto nei decenni passati di assemblaggio tra gruppi diversi, ne cito solo tre. Alla metà degli anni 90 provammo una sorta di unità d'azione con i compagni dell'anarchia, non solo a Roma ma anche in Sardegna, eccetera, e tanti problemi ci ha portato, con sbocchi politici praticamente nulli. All'inizio del nuovo secolo provammo Euro-opposizione, altro tentativo, campagna politica nazionale, che comunque individuava nell'imperialismo europeo il nemico principale, però pure lì troppe differenze, troppi problemi. Terzo tentativo con i compagni dell'auto-organizzazione, qui a Roma, Movimento per l'Auto-organizzazione Anticapitalista. Arrivamo quasi a una fondazione, arriviamo alla stesura di un documento anche interessante, però poi anche lì non se ne fece più nulla, anche se poi questi rapporti sono stati ripresi e, come diceva il compagno Bobbo prima, migliorati nell'ultimo periodo con un lavoro comune e proficuo. Da qui ne abbiamo dedotto che più che andare a mettere insieme i gruppi, cioè la teoria dell'unità tra i gruppi, una teoria che purtroppo ancora è in voga, insomma, li vediamo in vari gruppi, uniti contro di qua e uniti contro di là, Noi abbiamo pensato che per essere liberi, insomma, di pensiero, ma liberi intendo liberi anche da ruggini e da appartenenze del passato, la coltivazione degli orticelli a cui faceva riferimento Bobbo, noi avevamo necessità di abbandonare, insomma, ecco, e di adeguarci semplicemente alle nuove condizioni imposte dal ciclo economico capitalistico, insomma, no? che non necessitava più da parte nostra di mettere insieme gruppetti diversi, di mediare e di fare la teoria e di ritessere le lodi della teoria dell'unità nella diversità o della diversità che fa ricchezza. La diversità ci ha portato a un sacco di fallimenti, cioè questo è il problema. Quindi la questione è che rispetto al metodo, metodo d'analisi di cui facevo riferimento, a cui facevo riferimento prima, non c'è possibilità di grandi diversità. Così come il ciclo economico capitalistico si presenta per quello che è, anche l'analisi è quella che è e le conclusioni sono quelle che sono. Abbiamo sciolto i nostri piccoli orticelli, la battuta è sempre la stessa, ci abbiamo messo poco a sciogliere perché in verità non erano grande cosa, però l'abbiamo fatto. Allora l'appello sincero a tutte le donne e gli uomini di buona volontà, lasciando anche l'altra categoria che non divide il mondo, perché il mondo non è diviso in compagni e non compagni, è diviso in altro, insomma lasciamo perdere, mettiamoci a parlare scevri dalle cose del passato, ormai mangiate dal tempo, siamo nel nuovo secolo. Abbiamo bisogno di ritessere la tela di un'organizzazione di classe realmente autonoma, ma autonoma anche da quei pregiudizi là, insomma, no? Da vecchie ruggini, da vecchi litigi, da vecchi problemi del passato che oggi non solo non hanno più motivo di esistere, ma non interessano a nessuno. Chiunque frequenti una scuola sul serio, frequenti un lavoro sul serio, sa che ai lavoratori, di tutti i dibattiti che facciamo noi nel buco nostro, non dico la radio, ma insomma nelle sedi, nelle cose, non gliene frega niente, non c'è, quindi occorre rompere il ghetto e come dire, straripare nella cosiddetta società civile, innervarla insomma dei nostri contenuti, delle nostre convinzioni. Quindi sulla base dello scioglimento abbiamo avuto questa possibilità di parlare a più largo raggio con compagni a Roma e con compagni in tutta Italia. Questo ci ha portato a una prima ipotesi di, come dire, di percorso organizzativo che però non comprendeva più i gruppi. C'era soltanto questo nome che, come sapete, Combat, come vedete, come sentite, non contiene né partito né comunismo, ma non perché noi riteniamo il comunismo o l'organizzazione qualcosa di superato, tutt'altro, noi riteniamo le cose del futuro, ma perché pensiamo che da una parte ci sia la necessità di qualcosa che aggreghi più di quello che siamo riusciti a fare oggi, riproponendo da una parte i partiti e partitini e dall'altra appunto costituenti e costituiti per il famoso comunismo del futuro. Insomma, il comunismo è attuale, ma è attuale dentro il ciclo economico, cioè nel senso della maturazione sociale. Però da qui al momento della rottura rivoluzionaria ci vuole quello che ci vuole, ma innanzitutto ci vuole qualcosa che sia un'organizzazione che esiste sempre. Quindi diceva che avete scoperto l'acqua calda, può darsi, però di sicuro non adoperiamo gli strumenti, diciamo, della politica borghese. Anche da questo punto di vista un vecchio adagio marxista recitava contro la politica, cioè non adoperiamo più quegli strumenti del politicismo, tra cui anche l'assemblaggio dei gruppi e della diversità. Non è solo quello, c'è anche la questione della, a nostro parere, insomma, del processo di scarnificazione sociale della fine delle mediazioni, c'è l'inutilità a qualsiasi partecipazione parlamentaristica, c'è il superamento, perché reputiamo inadeguati gli strumenti sindacali e gli strumenti di movimento. Insomma, ci sono una serie di questioni che hanno attraversato un dibattito che è diventato nazionale e che ha prodotto, se non sbaglio, il 27 febbraio, una prima assemblea nazionale di questa area politica, che si è data un periodo di un 6 mesi, diciamo intorno all'estate o quantomeno l'autunno prossimo, per arrivare a una vera e propria ipotesi fondativa. E questo è tutto, insomma. E poi per i compagni che ci conoscono sanno il modo di agire, il modo è. Certo, con questo finisco, insomma, questo intervento, Combat è un movimento un po' schizzinoso, questo bisogna dirlo. Cioè noi non andiamo con tutti, cioè non siamo ecumenici. Noi col piccolo borghese che va in piazza per la pace e dentro casa c'ha la Golf, o col bottegaio che va in piazza per la pace e dentro il negozio c'ha l'immigrato super sfruttato, in piazza non ci andiamo. Con questo piccolo borghese, con questo medio borghese, abbiamo un rapporto di tutt'altro tipo che quello della pace. Ovviamente. Grazie. Ah, c'è una telefonata, va bene. Pronto? No. Pronto? Pronto? Sì, sei in onda. Mi sentite? Sì, sentimo. Allora, la prima cosa che vorrei dire è che sto spot per i preti tanto buoni proprio non mi è piaciuto per niente, perché il primo capitalista è proprio zio, che si sono inventati i maschietti per sottomettere le femminucce. Quindi non mi venite a parlare dei preti, perché non ne voglio sentire parlare. Se sono in buona fede, si tolgono la divisa, se no sono pubblicità ingannevole. Poi sto Combat, nome Combat, ma che è un film americano? Ma scusate. E poi un'altra cosa, prima di Marx c'è solo Lao Tzu, quello che ha detto il saggio non compete perché nessuno può competere con lui. Poi basta, fine. Poi non mi parlate di rivoluzione, perché è come il bussolotto del lotto, quello che sta sopra poi ritorna sopra. Allora, vogliamo parlare di evoluzione o no? Forse è meglio, no? Ecco, tutto qua. Va bene. E gli spot pubblicitari sui preti, perché me incazzo con una bestia, chiaro? Ciao. Va bene, ciao. Ciao. Allora, a scanso di equivoci ricordiamo che qui siamo dei mangiapreti, siamo anticlericali alla massima potenza. No, tra l'altro, tra le varie cose che ha detto Don Gallo, era proprio sul tabù, diciamo, del celibato, che lui è contrario. Ha detto no, il celibato non si può imporre, cioè o è una libera scelta o se no i preti si devono sposare, perché no, quindi tanto per dire. Però voglio dire, ognuno ha le sue contraddizioni, lui avrà la contraddizione di avere un pensiero di tipo socialista o comunista e di essere contemporaneamente prete. Però c'è stato pure qualche prete interessante, ricordiamo Fra Dolcino, Camillo Torres, il Lazzaretti, insomma, vabbè. Lasciamo per tanto, hanno ammazzati tutti questi, no? Romero, si attento pure Don Gallo. Allora, chiudiamo la parentesi, perché comunque non c'era nessuna intenzione di fare apologia, ma semmai di far risultare il paradosso che, no, in televisione dobbiamo assistere all'esibizione della bandiera rossa da parte di un prete, cosa che invece, no, si autocensurano magari i cosiddetti sinistri che vanno in televisione, no? Sono timidi da questo punto di vista. Chiudiamo sta... Era solo questo il senso, e penso che lei, l'ascoltatore, hanno capito questo. Allora, io direi adesso di mettere uno stacco musicale per poi sviluppare un ragionamento, però voglio anche così come riflessione, perché vorrei tornare al discorso pure sociale che ci capita, che adesso abbiamo spiegato un pochettino che significa sta migrazione di proletari, perché poi io non le definisco, non so se sono di classe o non di classe, ma gente che scappa solo con i vestiti che c'ha addosso è un proletario, no? Oh, però lo definisco come categoria di classe, e noi dobbiamo trovare il modo di, come diceva Bobbo, intercettare queste esigenze di classe che stanno manifestando, internazionalisti. E dentro sta cosa si sta aggravando, secondo me, lo metto come domanda per la ripresa successiva. Il famoso Bricchi, ma che viene... Non devi fare il break. No, però per lasciare una riflessione... È un escamotage di come piace, però... Il famoso Bricchi, cioè Brasile, India, Cina, Russia, no? Che... dalla crisi scatenata dagli Stati Uniti, i soldi farsi, dicono ci sono state speculazioni, la speculazione c'ha un nome e cognome, chi la fa? Sono le banche, i finanziari e via dicendo, no? Cioè che da questa crisi, mentre l'Occidente c'è ancora impantanato dentro, non sa come uscirne e prepara finanziarie greche in tutto il mondo, e dove non ci arriva direttamente ci va con le bombe, questi altri paesi l'hanno superata, già stanno in una fase di sviluppo. L'appanno di questo Occidente, che è così brutale nell'intervenire sul terreno sociale, io penso sia legata a questa cosa, cioè come noi reagiamo a quello che si sta presentando, perché tra giugno e luglio, come tutti gli anni, ci presenteranno il conto, è quello che si annuncia, è una cosa, come storicamente diciamo, lacrime e sangue, ancora di più,

neoplatonico, Plotino, stiamo parlando, sono un filosofo, uno così, insomma, si basava su un aspetto fondamentale, che diceva: dall'uno il molteplice, dal molteplice l'uno. Ossia, c'era una, in questa formulazione, una dinamica per cui dall'uno nasceva il molteplice, ma questo molteplice poi ritornava all'uno. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui nessuno è contrario comunque alla ricchezza, no? dei mille fuochi, delle mille talpe, eccetera. Il problema è se poi tutta sta roba, no? Si riconduce, si ricompone. Tra l'altro, questa è una frase che troviamo pure sul dollaro americano, perché non è che c'è, ma comunque, però è da sposarsi come formulazione, insomma, no? Perché può rientrare bene, si adatterebbe a quello che stavamo dicendo. Vabbè, chiusa la parentesi più o meno dotta, pseudo dotta, veniamo a noi. La Libia, la questione della guerra in Libia, volevamo dargli almeno, insomma, una decina di minuti prima di passare al discorso del... Allora, cerchiamo un po' di capire se anche voi avete fatto un'analisi da quello che ho sentito, qualcosa, insomma, avete sicuramente elaborato, prodotto, o più di qualcosa. Molti hanno letto questa questione dicendo: ah beh, ma Sarkozy se voleva acchiappare il petrolio in Libia, per cui ha forzato la mano alla coalizione per piazzare il petrolio. Allora, così, da alcune indagini, diciamo, d'analisi che abbiamo fatto, abbiamo visto che il petrolio libico rappresenta il 2% dell'intera produzione mondiale. Quindi non stiamo parlando dell'Arabia Saudita o degli Emirati Arabi, che hanno ben altri tipi di giacimenti. È vero che adesso hanno scoperto grandi depositi di gas in Libia, però parrebbe assai banale che questa fosse la lettura, anche perché Sarkozy, o comunque la Francia, è il terzo o quarto partner commerciale della Libia di Gheddafi. Questi sono dati tratti ufficiali dall'Istituto del Commercio con l'estero, compresa la Germania, che è il terzo, l'Italia è il primo. Ma chiaramente potrebbe essere una lettura molto, molto banale, insomma, del perché Sarkozy abbia assunto un atteggiamento particolarmente aggressivo, che ha forzato la mano, diciamo, alla coalizione, che ha visto la riluttanza dell'Italia in tutta sta vicenda, non certo per motivi umanitari, no? No, non è che Berlusconi e la Lega improvvisamente si scoprono pacifisti e antiimperialisti. Il problema è che, essendo l'Italia il primo partner commerciale della Libia, questo comporta il fatto che ci siano tutta una serie di commesse di carattere edile, industriale, oltre che il petrolio, no? Tutte poi, il 95%, tutte a favore di industrie del nord, che ovviamente questo intervento, questa guerra esplosa in Libia, rischiava di mettere in discussione, no? Questi già stavano a conto i soldi, l'impregilità, cioè arriva la guerra e chiaramente, tant'è che hanno chiesto assicurazioni al Consiglio Nazionale Libico rispetto a tutti questi accordi, appunto, commerciali, eccetera, e il Consiglio Nazionale ha assicurato che comunque loro avrebbero rispettato tutti i trattati che erano in essere. Tornando alla Francia, noi sappiamo che l'Africa sta vivendo un incendio, insomma, no? Nel senso che ci sono varie zone dell'Africa, e anche della parte medio orientale, insomma, che sono in subbuglio, addirittura in guerra. La Costa d'Avorio, tanto per dirne una, c'è stata la secessione proprio di questi giorni, pochi giorni fa, del Sudan, dove è forte la penetrazione cinese. Insomma, per farla breve adesso, senza entrare nel dettaglio, diciamo che c'è una grande penetrazione di carattere commerciale e ovviamente di sfruttamento delle risorse prime di questi paesi da parte di Russia, con Gazprom, eccetera, della Cina, no? E degli USA. Dopodiché c'era sta striscia sopra, diciamo, del Maghreb, Mashrek, no? Che al momento, prima delle rivolte, era ancora, come dire, incontaminata, in cui le zampe sopra non ce l'aveva messa né la Cina, né la Russia, né gli Stati Uniti, eccetera. Io ho il sospetto, chiamiamolo così, che la Francia, che comunque ricordiamolo, ha sempre teso a mantenere la propria indipendenza anche dalla NATO stessa, cioè come grande potenza ex coloniale, metà delle regioni africane parlano francese, non ce lo scordiamo, ha una forza di frappa, ha la sua bomba atomica, insomma, che abbia voluto in qualche misura riaffermare, almeno in quella striscia che è quasi tutta francofona tra l'altro, diciamo una propria supremazia prima che ci arrivassero gli Stati Uniti o altri paesi, insomma. Visto che appunto erano esplose poi queste rivolte, qualcuno dice manovrate, altri dicono no, spontanee, ma questo si vedrà, forse si saprà un giorno. E quindi questo potrebbe aver spinto la Francia a assumere questo atteggiamento, a forzare la mano. E nello stesso tempo non va dimenticato, secondo me, che proprio Sarkozy, dopo il cosiddetto processo di Barcellona, ha lanciato l'Unione Mediterranea, stiamo parlando del 2008, quindi non di tantissimi anni fa. L'Unione Mediterranea, a cui hanno aderito tutti i paesi del Mediterraneo, comprese l'autorità palestinese e Israele, che doveva avere, doveva essere un bacino, come dire, sempre sotto legge dell'Unione Europea, ma autonomo, indipendente, no? Qui potremmo ripensare anche al discorso dell'euro a due velocità. Vi ricordate che si diceva che c'era un euro di tipo mediterraneo che faticava a stare dietro alla locomotiva tedesca, eccetera. E quindi l'apertura, diciamo, di un bacino che fosse non solo ricco di materie prime, cosa estremamente importante, ma che rappresentasse o potesse rappresentare anche un bacino di sviluppo per dare una posizione, come dire, predominante, no? Alla Francia, a altri paesi, cui la Francia sarebbe stata leader ovviamente, essendo quella più. Tutto ciò, adesso non parlerò del piano solare, che qui c'è poi tutto in ballo, un discorso sul piano solare, cioè la costruzione in questi paesi del, appunto, Maghreb, compresa poi anche la Libia, è tutta roba che è già istituzionalizzata, che è stata approvata al Consiglio d'Europa, eccetera, eccetera, che prevedeva appunto la costruzione, c'è anche Rubbia di mezzo, tanto per capirci, di un mega piano solare che avrebbe dovuto dare l'energia elettrica, coprire circa il 20% del fabbisogno elettrico nei paesi del bacino mediterraneo europeo. Ecco, diciamo questa premessa qua, in questo contesto, che ne so, cerchiamo un po' di capire, perché ripeto, penso che anche voi siate un po', come dire, perplessi sulla spiegazione, no? Che di Sarkozy mi pio tutto io, levo il petrolio all'Italia, mo pio. Guarda, potrei sbrigarmela dicendo sono d'accordo. C'è una telefonata. C'è una telefonata, prendiamo la telefonata. Andiamo. Pronto? Sì, buongiorno, io Fabio, io sono un po' ignorante in storia, però a me sembra di star sentire parlare del discorso del capitalismo, no, del colonialismo, cioè no, del capitalismo, del colonialismo da parte dei francesi, inglesi e molti altri paesi dell'Europa del Nord, tra cui Olanda e Belgio, nei confronti dell'Africa, che prima era un po' più celato, lo tenevano, cioè finché gli africani erano un po' più addormentati e non se ne accorgevano, gli bastava tenerli sotto con altri espedienti, mentre oggi gli tocca fare un po' di rivoluzioni, un po' di casini per tenere tutto come era prima, perché non è cambiato niente, parliamoci chiaro. Molla, l'Inghilterra non è ancora entrata in campo, però non ci scordiamo che mentre noi stiamo a fare la Salerno-Reggio Calabria da 60 anni, francesi e inglesi hanno fatto il tunnel sotto Torino, dove passano treni, camion, perciò queste cose bisogna pure un po' tenerle in considerazione, nel senso che Nord Europa viaggia a un'altra velocità in confronto al Sud Europa, però al Sud Europa mi pare che Sud Europa è rimasta solo l'Italia, perché la Spagna, bene o male, sul solare c'è una città che va tutta energia solare, mi sembrava Bilbao, una cosa del genere. La Germania si è presa i turchi, e comunque la Germania sono sempre stati dei grossi lavoratori, acciaierie, cose, e vanno. A me mi pare che l'unico paese che è rimasto Europa del Sud è l'Italia e forse la Grecia, però io la Grecia non ci sono stato, perciò non te lo so dire come funziona, forse se state ci vado pure. E poi nel discorso dei debiti, qui io vorrei capire, allora l'Etiopia è indebitata con l'Italia è indebitata con l'America è indebitata con la Cina è indebitata con la Russia, cioè poi alla fine questo debito dove va a finire, perché il debito gli stati ce l'hanno tutti nel mondo. E poi volevo rispondere anche a quella signora che ha chiamato prima, io volevo chiedere una cosa, che parlano sempre che le donne sono sottomesse, ma la regina d'Inghilterra stira? Vi saluto, ciao, buongiorno. Vabbè, insomma le cose sono un po' più complicate, però vabbè la cosa che mi viene da dire è che è vero che l'ANAS non fa Salerno Reggio Calabria a 60 anni, però a Bengasi Tripoli ha provato a farla, l'ha fatta in 2 anni, 3 anni, ha cominciato a abbozzarla, quindi quando vogliono le infrastrutture le sanno costruire, magari quando non vogliono le costruiscono, ci mettono un po' più di tempo per costruirle. Comunque dicevo prima che potevo liquidare la cosa dicendo sono d'accordo, nel senso che l'analisi che il compagno ha fatto è molto affine alla nostra, ci sono motivi di tipo strategico, anche politici ed economici ovviamente, però un po' più a lungo termine, entro cui se non si cercano di cogliere, al di là appunto della conoscenza o meno della storia, che comunque insegna che non è che i popoli africani e nordafricani si sono svegliati oggi, cioè in realtà sono quantomeno un secolo e mezzo che ciclicamente rivolte, autonomie, nazionalizzazioni dell'economia, conflitti, guerre, cioè so potenze, ora ovviamente nel quadro internazionale attuale in alcuni casi un po' più deboli, ma non sempre, perché in questo ciclo dei debiti il sultanato d'Oman tanto male non se la passa, quindi poi alla fine tanto poveri e disgraziati non sono. Quella dell'Unione Mediterranea è un centro fondamentale anche da approfondire, anche da portare a livello analitico nelle situazioni dei compagni. Noi abbiamo chiamato il Mediterraneo brucia non semplicemente per un motivo estetico del piacere di vedere il fuoco e di vedere le luci della rivolta e goderne su YouTube piuttosto che su altre parti perché ci piaceva, no, perché il Mediterraneo a livello strategico è un punto di allargamento dell'Europa, materie prime tra cui non solo petrolio ma forza lavoro, la forza lavoro bussa alla porta, proprio come l'est europeo, più difficile perché è conteso alla Russia, che è fondamentale, quindi Sarkozy si pone come avanguardia, come punta, come con anche storicamente più libero rispetto ad altri alleati che erano sempre stati più soggetti al controllo americano come la Germania e l'Italia, dove comunque sia per motivi storici la presenza NATO delle basi è proprio più forte, di una nuova offensiva in qualche modo per rigenerare anche una classe dirigente più adeguata in quei territori. È vero, uno dice Ben Ali in Tunisia era francese, perché lo devi far saltare? E manco è vero che l'ha fatto saltare solo Sarkozy o lo Stato Maggiore francese, perché è saltato dietro la spinta comunque sia di pulsioni genuine, spontanee, comunque anche del proletariato, per usare una parola vetusta, tunisino. E non solo, della gente, della cosiddetta società civile tunisina molto più sviluppata di quanto noi immaginiamo, delle donne che hanno avuto un ruolo di protagonismo in queste situazioni molto forti. Però Ben Ali era un vecchio fantoccione generale, in un momento di fase di competizione così forte, così urgente per ridefinire al di fuori del nucleare o di altre l'approvvigionamento di fonti energetiche, di forza lavoro, strategiche o altro. Un Ben Ali, un Mubarak appartengono al secolo a tempi differenti. Oggi è necessaria una classe dirigente anche in quei paesi più adeguata alla richiesta, alla velocità del capitalismo e europeo in questi casi. Certo, l'Europa è strana, è multiforme, è sfaccettata. Noi appunto parlavamo prima di opposizione come percorso. Noi sulla questione dell'imperialismo europeo ci abbiamo proprio iscritta nel sangue, nel senso sul contrasto del nemico di casa propria e del vedere dentro l'Europa e dentro questo grande laboratorio che poi sostanzialmente dal 90 è in continua definizione di rapporti di sovranità, di rapporti economici, il problema centrale. All'interno di questo la Libia c'entra tutto perché noi abituati a concentrarsi sui cammelli, sulle tende, sulle gheddafine, sui momenti mediatici, cioè ci dimentichiamo spesso quali sono veramente gli interessi reali, no, poi non tanto noi, anzi, lo ripetiamo ogni verso spinto, ma in generale si tende a celare quelle che sono le reali interessi da quel punto di vista. Ripeto, a Bengasi Tripoli hanno provato a farlo, hanno provato a costituire uno Stato nazionale e si sono resi conto che lo Stato nazionale arabo non rende più esattamente come lo Stato nazionale europeo. E anche là c'è una fase di disgregazione e ristrutturazione del potere politico in quei paesi per adeguarlo a quello dell'Europa e per poter essere, per poter avere un bacino di realtà. In questo poi allargheremo magari il discorso, l'autorità nazionale palestinese che citavi precedentemente è paradigmatico, è fondamentale, cioè è un'entità politica organizzativa invisa alla stragrande maggioranza dei palestinesi stessi, al di là di quello che purtroppo anche alcuni esponenti, diciamo, della sinistra cosiddetta sinistra radicale nostrana vogliono accettare. E peraltro non abbiamo un rapporto molto stretto con alcuni compagni palestinesi e siamo stati presenti a quel bel momento di occupazione della rappresentanza della delegazione diplomatica della NP a Roma da parte di alcuni giovani palestinesi che da un lato formalmente chiedevano unità politica tra le varie forze lacerate dalla Palestina, in realtà proprio perché ci abbiamo avuto anche parlato, hanno attraversato le nostre sedi, abbiamo avuto modo di incontrarli, chiedevano qualcosa di più, cioè chiedevano una stagione nuova in cui quelle rappresentanze politiche venivano disconosciute entrambi, e non era soltanto un fatto che veniva qua da Roma dalle seconde generazioni dei palestinesi, ma veniva anche dalla Palestina stessa, perché comunque l'ANP si fonda guardando all'Europa, cioè non è concepibile se non guardando all'Europa e ai soldi che l'Europa gli ha dato per costituirsi come organizzazione anche statuale. Allora, se non si pone all'interno di quel tipo di scacchiere, chiamiamolo così, strategico, non si capisce anche la degenerazione della questione palestinese, la debolezza che ha la questione palestinese in questo momento. Cedo poi la parola adesso. Sì, volevo soltanto confermare che mi trovo d'accordo, insomma, con quello che è stato detto finora rispetto alla necessità d'analisi che vada oltre appunto le sintesi della guerra del petrolio e basta. Però c'è un aspetto che, cioè, qual è la risposta possibile oggi a tutto questo? Questo è, credo, uno dei problemi, no? Forse il nostro problema centrale. Cioè, la cosa che accomuna le varie poco frequentate manifestazioni più o meno pacifiste che abbiamo visto in questi ultimi giorni sono manifestazioni del chiediamo, no? Allora, chiediamo il cessate il fuoco, chiediamo la riapertura delle trattative, chiediamo qua, chiediamo là. Io una semplice domanda, ma proprio ai compagni qua, ma anche a quelli che ci ascoltano, ma chiediamo a chi? Cioè all'ONU che copre la guerra imperialista, ai governi che sparano? Sarebbe da sostituire chiediamo con imponiamo, ma per imporre dovremmo avere rapporti di forza che ci permettano di imporre qualcosa a qualcuno. E immaginiamoci che cosa significa poter imporre un vero cessate il fuoco. Ci vorrebbe una reale internazionale dei lavoratori che riuscisse a quantomeno a muoversi a livello europeo, coordinata con i lavoratori dei paesi che subiscono la guerra, per cercare di imporre appunto questa soluzione comunque temporanea, perché questo sistema è guerra di per sé. Ma insomma, bisognerebbe imporre più che chiedere, quindi sembra quasi una domanda retorica, no? Chiediamo che cosa? E secondo me non basta nemmeno, cioè poi la conclusione pure giusta, insomma, di riaffermare la nemicità in casa propria, cioè di dire appunto secondo il vecchio assioma appunto marxista, insomma, che i padroni di casa nostra sono i primi nemici e che per dare una mano ai proletari di ogni paese più che fa il tifo per le lotte senza fare nulla bisognerebbe fare le lotte pure qua. Ma pure questo non basta, perché spesso rimane solo un desiderio. Il problema è che bisogna costruire lo strumento per soppiantare i nemici di casa nostra. Quindi, concludendo, cioè il nuninternazionalismo moderno del terzo millennio, anticapitalistico, ma in senso appunto attuale, che non sia a rimorchio appunto delle vecchie concezioni staliniste dell'internazionalismo che sostenevano gli stati guida da una parte e vedevano appunto l'imperialismo americano come unico imperialismo, e oggi essere internazionalisti significa darsi da fare nel piccolo nostro, il nostro paese, nei nostri quartieri, nelle nostre città, per costruire quell'organizzazione dei lavoratori che ancora non c'è. Questo è un impegno pratico, concreto, poco desiderante, umile, quotidiano, ma che c'ha un risvolto reale, appunto, no? Che potrebbe nella prospettiva dare una mano sul serio ai lavoratori degli altri paesi che subiscono le guerre spesso noi come padroni nostri portiamo. Io però su questo no, scusa Tavio, su questo vorrei dire una cosa. Qui non c'è un sindacato reale, ci sono tutta una serie di esperienze, però in Grecia hanno fatto decine di scioperi generali veri, si sono fermati per parecchi giorni e non riescono a sbloccare. E la stessa cosa hanno fatto in Francia, le lotte ci sono state, in Inghilterra sabato scorso c'è stato, insomma, risposte di lavoratori avvengono, però questi te macinano sopra, vanno avanti nell'indifferenza così. Certo, noi siamo il fanalino di coda, siamo ancora sotto. Ecco, tutto ciò che siamo sotto, siamo molto frazionati, ognuno di noi ha un punto di vista, una verità e via dicendo. Ci sono cose ridicole, no? Scioperi fatti da organizzazioni da soli, no? C'è quella della CUP, non riesco a darsi. Le modalità, la chiamata dello sciopero del 6 maggio, lo chiamano generale, è uno sciopero di 4 ore, uno sciopero con manifestazioni locali, che mi danno più di essere un veicolo di propaganda elettorale, che magari potrebbero anche rinviarlo all'ultimo momento se elettoralmente al partito di riferimento di quell'organizzazione non gli farebbe comodo, per esempio, no? E c'è pure una massa di movimenti, di studenti che pensano che bisogna attraversare, bisogna stare così, però sai, l'attraversamenti, se non le fai con i semafori giusti, questa è come la narrazione dei Vichy, ti schiacciano sotto. Ecco quello che dico, cosa possiamo fare, perché poi i guai verranno dopo maggio, perché la botta pesante arriverà tra giugno e luglio, i famosi periodi in cui ai lavoratori gli danno un'altra mazzata, no? Per dire, noi che facciamo? Noi, io adesso l'accenno, no? Perché penso che domenica prossima su questa imporrò ai compagni la trasmissione che ragioniamo. Noi ho fatto una denuncia 2 anni fa. C'è in cui ho fatto vedere, cioè, che basterebbe imporre il divieto di cumulo e un tetto sulle pensioni d'oro e ci sarebbero a disposizione 27 miliardi. C'è qualcuno che specularmente cerca di sfruttare sta cosa, ma giocandola sullo scandalo e non su una proposta. Se questa proposta poi la metti pure su lavoro, no? Che i manager non possono piare 1000 volte più, ma gli metti più 30 volte, cioè sarebbero 100 miliardi a disposizione per darli al precariato, alla cosa. Noi qui che famo è che c'è la possibilità di trovare forme di conflitto reale al posto di perdere 6000 rivoli, perché questo vedo io, perché poi il discorso di darsela un'organizzazione necessita pure, ma che tipo? Oggi la deve adeguare alla situazione, perché se in Francia hanno fatto scioperi pesantissimi durati 15 giorni, 20 giorni con milioni di persone in piazza, anche con i scontri, in Grecia sono 2 anni che si stanno a menare proprio pesantemente, non riescono a svincolare, la Grecia è fallita di fatto, perché anche il primo manovra non ha funzionato. Edson Bader Portogallo, Stetson Parling l'Irlanda, mantengano artificialmente la Spagna e l'Italia, perché altrimenti cascano altre cose. Voglio dire, noi troviamo una situazione. Vai. Sì, poi dal punto di vista delle varie ragioni per cui, non so, io non, devo dire, non sono un grande appassionato di vedere sempre l'Italia come il posto di, cioè, sempre noi peggiori di tutti, che poi ci stanno quelli più bravi di noi, cioè, ci stanno anche delle ragioni, magari in alcuni casi come la Grecia, pure belle in qualche modo da raccontare a proposito delle narrazioni, pure poi conflittuale. In Francia c'è un potere corporativo dei sindacati un po' più forti, riescono là sì a avere un rapporto di forza reale. In realtà poi Ettore segnalava una cosa, poi cioè, l'auspicio è che magari domenica prossima ne parliamo più approfonditamente, che io conosco relativamente poco, però sono, l'ho apprezzato, ho provato a conoscere negli ultimi tempi. Cioè, ha delle idee su delle campagne sicuramente originali e anche efficaci dal punto di vista, come dire, probabile. Problema che poi, che quello è un problema che poi poniamo noi sostanzialmente, che tante di queste campagne sono nate e tramontate nell'arco del ciclo lunare, ma non perché non fossero giuste o corrette, ma perché in assenza di una forza organizzata autonoma reale che ponga anche la campagna come strumento di politica, so ragioni senza forza, so ipotesi come vecchie campagne per 10 euro l'ora come salario minimo che altri avevano proposto nelle nostre sedi, nelle nostre riunioni, i compagni miei, non altri, che però senza un'articolazione territoriale nei posti di lavoro di auto-organizzazione che faticosamente, con tutte le difficoltà, cerchiamo di costruire, è difficile portare. Ma questo poi ci porta già dal punto di vista, diciamo, del conflitto sociale, e mo ci arriviamo. Un altro collante era dire cosa fare. Per esempio, questa è un'esperienza anche come autocritica, no? Abbiamo detto prima che l'autocritica è un'arma fondamentale per i compagni. Noi abbiamo creato con alcuni compagni immigrati, tra l'altro anche storici responsabili di associazioni di immigrati a Roma, che conoscono un po' tutti quanti, ma non faccio i nomi, ma comunque sia con altre situazioni, un comitato lavoratori italiani immigrati uniti, si chiamava CLIU, nato su due ipotesi, che tra l'altro rivendichiamo ancora come ipotesi organizzativa e strategica. Non soltanto l'unione dei lavoratori italiani immigrati, che è stata già detta, già fatta, già proposta, ma però in realtà è già una cosa differente, che non era l'unione dei quadri dirigenti italiani immigrati o la sussunzione, usando un termine radiofonicamente orribile, degli immigrati in organizzazioni italiane, ma costruire una cosa nuova. Ma dove si lavorava? Nei territori, nei quartieri. Nei quartieri un intervento organico di italiani immigrati insieme manca a Roma, e ci stanno in zone, in tutta Roma, degli spazi di intervento che sono incredibili, e chiunque si mette a fare un lavoro non soltanto per la risoluzione dei bisogni, casa, permesso di soggiorno, ma proprio organico di organizzazione con gli immigrati, se ne rende conto. Perché è naufragato quell'ipotesi? Non è naufragata, c'è ancora difficoltà, e la proposta ci sta ancora. Perché il 17 ottobre 2009 ci fu il corteo, ci fu la manifestazione organizzata dalla CGIL per i diritti e libertà degli immigrati. Come al solito funziona con i sirene, no? C'è la CGIL che convoca la manifestazione, o sciopericchio, o scioperacchio, 4 ore, 2 ore, 3 ore, articolati, track e track, e tutta una serie di quegli stessi compagni, magari che, cioè, ci stai costruendo pure delle cose insieme, quindi non stiamo parlando, diciamo, dell'opportunista classico, sente queste sirene, tocca parlare con la CGIL, perché loro hanno la possibilità di arrivare ai lavoratori, perché sono organizzazioni così, tocca parlare con la FIOM, perché la FIOM ti dà la possibilità di parlare con... Tocca parlare con sindacati di base, manco spesso vengono presi in considerazione in questo panorama, però a volte sì, a volte no, a seconda, diciamo, dell'esigenza di entrare in contatto con un'organizzazione che pare che magicamente ti crea il tramite verso i lavoratori. Allora, prima di tutto stai denunciando la tua debolezza totale, di incapacità di interagire con i lavoratori, se non passando per un'organizzazione che non è tua e non ha i tuoi stessi interessi. E quindi ci si pone mo sul tavolo come rapportarsi con lo sciopero del 6 maggio, continuando a cercare di andare, di seguire, di inseguire la chimera dell'ultima organizzazione operaia realmente forte in Italia, che sarebbe la CGIL. Che sarebbe la CGIL? No, noi l'abbiamo definito che la CGIL è il problema, non la soluzione. Appunto. oppure che sarebbero quei sinceri compagni dentro la CGIL, che secondo me sono un problema forse peggio pure del non buon compagno della CGIL, esattamente come ogni tanto pure il buon prete, questo vabbè è una cosa un po' mia perché so mangia prete, lo dico pure all'ascoltatrice prima, qui il buon prete è quasi peggio del cattivo prete, perché ti legittima un'organizzazione rimanendoci dentro piuttosto che autosciogliersi ed entrare nella nostra organizzazione come dovrebbe fare Don Gallo, perché ce ne avremmo tanto bisogno peraltro di persone come lui. E da quel punto di vista continuare a seguire queste cose oppure cominciare veramente a immaginarsi la possibilità di smarcarsi. È vero che questi, che altre organizzazioni sindacali in Europa, convocando un certo tipo di manifestazione, hanno dato pure modo in qualche modo di creare uno scenario, preparare un terreno su cui dispiegare anche un'attività conflittuale non secondaria. Vero pure, per esempio, il 14 dicembre ci si è mossi comunque in una convocazione che era di parte di quel sindacalismo di cui abbiamo parlato adesso, come AFIOM, in quella rete, in quell'unione, aspetta. E, d'altra parte però ci sta la questione... Scusa, ascoltatori, c'è stato un attimo... oltre c'è, quello è vero quello là, però poi dov'è che si è dispiegato il conflitto? Nel seguire pedissequamente quello che doveva essere lo scenario preparato, il teatrino pronto, oppure il fatto che questo teatrino si sia spontaneamente, immediatamente, compagni giovani che noi abbiamo conosciuto, che stanno anche diciamo, nei nostri, noi abbiamo, ci stanno dei compagni che sono Rossa Gioventù, oggi sta pure in compagno loro, che le loro giovanie stanno facendo anche un lavoro molto grosso, ci stavano, hanno testimoniato, scavalcato, perché si è rotta quella compatibilità di quel teatrino. Allora, da là, si è visto che alcuni settori del movimento, dopo il 14 dicembre, hanno provato per la settimana successiva e anche i giorni seguenti a riassorbire questa carica di rottura che ci stava. E su questo siamo un po' tutti responsabili, sia noi in qualche modo che in realtà non la volevamo assorbire manco per niente, però abbiamo parlato il linguaggio nostro contro qualcun altro, sia quelli che l'hanno provato ad assorbirlo. Allora, arriviamo al 6 maggio, come ci arriviamo? Dobbiamo rifare risaltare lo scenario per rifare saltare il teatrino? Dobbiamo continuare a... Però far saltare teatrini, uno poi a un certo punto si stanca. Cioè si vorrebbe creare teatrino proprio. Non si vorrebbe creare teatrino. Non si vorrebbe lavorare all'interno del teatro. Si vorrebbe lavorare all'interno dell'espressione del conflitto. Allora da là si pone il problema. Va bene le campagne, va bene le manifestazioni, va bene le grandi date, va bene gli sciopericchi. Però poi l'auto-organizzazione è un lavoro faticoso, compà. E su questo poi mi trovo spesso e volentieri in difficoltà con compagni della mia età o più giovani nell'indicare la via, nel dire che cosa fa Combat, parte a rompere i coglioni al mondo, e fa, cerca di praticare auto-organizzazione e organizzazione, ma non è un lavoro facile, è un lavoro faticoso, lavoro, e quando ti arriva il responsabile della CGIL romana, sul tavolo ci mette qualcosetta di più. Sì, no, io condivido totalmente quello che ha detto il compagno, anzi condivido che la CGIL oggi rappresenta il massimo argine e il gendarme, no, di controllo sociale in questo senso, però purtroppo finché questa analisi non riesce a essere anche del movimento diffuso, diciamo, no, degli studenti, eccetera, perché questo non accada, perché noi non siamo in grado di farlo capire, o perché gli altri non vogliono capire. Io ho qualche cosa da dire, ce l'avrei, nel senso che escludendo la mala fede, quando in questo senso intendo la generalità dei compagni giovani del movimento, quello che però posso rimproverare, secondo me, anche una grande ignoranza, no? Anche della storia, del movimento operaio, della stessa CGIL, perché quando si afferma che la CGIL è ancora riferimento di, vuol dire che nessuno si è preso la briga di andare a fare un excursus, no? Sulle evoluzioni che ha avuto sia il movimento operaio di lotta in Italia, dei partiti che rappresentavano, dicevano di rappresentare questo settore di classe, e l'evoluzione in contemporanea e contestualmente anche della CGIL. E quindi se questo discorso non riesce a diventare patrimonio del movimento, ossia che la CGIL non è e non può essere in quanto l'abbiamo ripetuto mille volte, riflette per il 90% le posizioni del Partito Democratico. Partito Democratico che appunto è l'evoluzione finale, no? Poi non so se ce ne saranno altre, che è partita dal PC, è passato per il PDS, quindi DS e quindi Partito Democratico, PD. E adesso finisce con Montezemolo. È probabile, Montezemolo, gli ho detto fatta avanti te perché noi ci viene da ridere, eccetera. Allora, voglio dire, su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema, ripeto, che però facendo una fotografia spietata, poi questo emerge oggi passando qui per San Lorenzo, vedevo i manifestini appesi che tutto sommato invitavano allo sciopero generale della CGIL, cioè, speriamo che non sia la solita cosa, ma che invece, ma che famo? Chi vive sperando, no? Muore sperando. Voglio dire, o si fa un'analisi lucida, no? Di quello che è la CGIL, di quello che rappresenta, di quelle che sono diciamo le sue direttrici politiche, e dopodiché si arriva a una conclusione e si dice che cos'è la CGIL. E a quel punto c'è uno schieramento di campo preciso. Chi vuol stare con quella posizione va in quella posizione e non dice di essere, che ne so, un antagonista. Dice: io sono per il cambiamento democratico graduale, l'espansione di una democrazia borghese, eccetera. Io direi che la chiarezza che manca, questo è. Sì, no, per quanto riguarda noi, il rapporto con la CGIL è stato già definito il 17 febbraio del 1977. Giusto, mi sembra che era quella. Ma anche da prima, però, anche da prima. Cioè, io c'ho ricordi che qua la CGIL, cioè battaglie qui al policlinico, dentro i posti di lavoro, insomma, da parte dei comitati operai autonomi, eccetera. Insomma, hanno definito già il rapporto con la CGIL. Per quanto mi riguarda, io poi lavoro nei trasporti, la CGIL per me è il padrone direttamente, insomma, no? Ma non soltanto in Moretti, ma in centinaia e centinaia di dirigenti che sono passati attraverso questa organizzazione e sono diventati, si sono fatti padroni, sono diventati padroni di un'azienda che è quella dei trasporti. Cioè, che poi ancora oggi, no, che ci siano, diciamo, pezzi di cosiddetto movimento, insomma, più o meno, che devono attraversare, cioè, poi tutti questi neologismi ormai sopportati, cioè, non capisco bene che vuol dire, insomma, no? Se non in termine tecnico, cioè, forse non vanno al comizio, sono pure vanno brutti, solo attraversare, sì, contaminare, narrazioni, tutte queste cazzate qua, insomma, no, cioè, non bisognerebbe ristabilire un po' dei linguaggi autentici. Ammiro, insomma, alcuni compagni che continuano a farlo, ce ne so anche in questa radio, e tanto meglio. Cioè, evidentemente non c'è la comprensione, insomma, di quello che è stato il ruolo, appunto diceva prima Roberto, del sindacato di Stato, ex concertatore, oggi è direttamente integrato in questo paese. Però c'è da dire pure un'altra cosa, c'è anche l'oggettiva, quando non soggettiva, constatazione del fallimento di una scommessa che si era fatta 30 anni fa, e io modestamente ero uno di quelli che aveva scommesso nella possibilità di portare via i lavoratori tesserati dei sindacati di Stato e portarli a un sindacalismo alternativo, antagonista di base, eccetera eccetera. Questo secondo me apre un altro capitolo che non possiamo affrontare oggi, lo accenno soltanto, che è l'insufficienza sindacale in sé. Cioè, questo è il problema che ci abbiamo, e in questo c'è anche il progetto strategico Combat, che si pone come organizzazione politica di prospettiva e non più soltanto come organizzazione sindacale. Lo sciopero è un fatto storico naturale, sta nelle condizioni di svolgimento del movimento reale, è un fatto ineliminabile, ma oggi lo sciopero deve acquistare condizioni nuove, si deve rapportare con le condizioni nuove. Oggi i scioperi nei posti di lavoro vanno bene, ma siccome abbiamo milioni di lavoratori che non hanno manco un posto di lavoro, bisognerà organizzare degli scioperi, delle mobilitazioni diverse, che forse non siano più gli scioperi del millennio, del secolo passato, ma qualcosa di diverso, che rassomiglia a una forma insurrezionale, insomma, che riesca veramente a bloccare un paese, no? Perché se no facciamo la scaletta 11 marzo, 31 marzo, i trasporti hanno pensato bene di farsi uno sciopero per conto proprio da parte di CGIL, CISL, UIL, Orsa, UGL e FAST, l'hanno fatto ieri, è andato come è andato, va bene. 15 aprile la giornata della collera della CUB, il 6 maggio lo scioperetto della CGIL, poi l'11 maggio c'è il terremoto a Roma, per fortuna uno direbbe così, insomma, può darsi che si chiude la partita degli scioperi e poi andiamo verso l'estate aspettando il nuovo autunno caldo. E queste sono le cose di vedere in una maniera romantica, no? Gli autunni caldi, scioperi generali, le cose. E qua o nasce spontaneamente l'esigenza che ti costringe di trovarsi insieme in una piazza e cominciare veramente a inneggiare, a sventolare più che le bandiere i forconi, e allora forse, no, qualche cosa potrebbe mettere in moto, pure a partire da una serie di autocritiche di sé, certi errori fatti da 40 anni, anche perché oggi Dario è stato silente perché ieri sera ha fatto il bagordo e non è molto, è giovane, capito? Non regge